Giallo e Nero di Daniele Biacchessi. È l'agosto del 1944, Sant'Anna di Stazzema, un piccolo paese di montagna in provincia di Lucca, in Toscana. Parla Londra. Trasmettiamo alcuni messaggi speciali. Felice non è felice. È cessata la pioggia. La mia barba è pioggia. Questa storia parte da una fotografia in bianco e nero, leggermente sfocata. Ritrae un gruppo di piccoli che giocano davanti al parco della scuola. Cantano e ridono felici. Si tengono per mano e compiono un giro tondo. Poco prima avevano scritto i loro sogni su fogli di carta, poche righe, frasi di bambini che vivono spensierati mentre intorno la guerra dei grandi distrugge e divide il mondo. Il 12 agosto 1944 quei sogni di bambini vennero infranti da qualcosa più grande di loro, qualcosa che aveva a che fare con la morte e la violenza dei grandi. I razzi illuminarono il cielo di rosso. Poi apparvero i soldati nazisti delle SS. Entrarono a Sant'Anna di Stazzema, accompagnati da italiani fascisti. Bruciarono le case e alla fine si contarono 560 morti. I responsabili di quel massacro erano già conosciuti alle autorità italiane nel 1945, ma i documenti furono nascosti per ragioni di Stato. Le prove erano rimaste in un armadio dimenticato dentro un palazzo del Cinquecento a Roma, sede della Procura Generale Militare. Un armadio con le ante rivolte verso il muro, chiuse a chiave, protetto da un cancello e da un lucchetto. È accaduto che nel maggio del 1994 alcuni operai stavano compiendo dei lavori nel palazzo. Si accorsero della presenza dell'armadio, lo aprirono e venne fuori ciò che restava della memoria italiana. 695 fascicoli, stipati uno sull'altro. Un registro composto da 2273 voci annotava il contenuto di quel materiale in modo rigoroso, preciso, ordinato. C'erano le testimonianze dei sopravvissuti alle stragi dei nazisti e dei fascisti. C'erano i nomi dei colpevoli. Al numero uno, l'eccidio delle Fosse Ardeatine, a Roma. In testa, Herbert Kappler, seguito dai nomi di altri assassini. C'era Erich Priebke e Karl Haas. E c'erano quelli che colpirono a Marzabotto, Fivizzano e a Sant'Anna di Stazzema e in centinaia di paesi e città italiane tra il 1944 e il 1945. Ma allora, come è stato possibile nascondere una verità importante e scomoda? E soprattutto, chi ha deciso lo spostamento di quei fascicoli? Alla metà degli anni 50, il procuratore generale militare Arrigo Mirabella concorda con il Ministero degli Esteri una linea ispirata alla cosiddetta ragione di Stato. Linea che è ben sintetizzata da questa lettera inviata il 10 ottobre 1956 dal Ministro degli Esteri, il liberale Gaetano Martino, al Ministro della Difesa, il democristiano Paolo Emilio Taviani. Sono convinto che coloro i quali presero parte a così barbari azioni non meritino personalmente alcuna clemenza. Non posso tuttavia nascondermi la sfavorevole impressione che produrrebbe sull'opinione pubblica tedesca e internazionale una richiesta di estradizione da noi avanzata al governo di Bonn. Non ho bisogno di sottolineare a te, che segui da vicino i problemi della collaborazione atlantica ed europea, quali interrogativi potrebbe far sorgere da parte del governo di Bonn una nostra iniziativa che venisse ad alimentare la polemica sul comportamento dei soldati tedeschi. Proprio in questo momento, infatti, tale governo si vede costretto a compiere presso la propria opinione pubblica il massimo sforzo, allo scopo di vincere la resistenza che incontra oggi in Germania la ricostruzione di quelle forze armate di cui la NATO reclama con insistenza l'allestimento. Il ministro Taviani concorda pienamente con tale linea. La NATO ha bisogno del riarmo della Germania per contrastare, in anni di guerra fredda, la superpotenza sovietica. Si arriva così al 14 gennaio 1960, quando il procuratore generale militare Enrico Santacroce decide di procedere all'archiviazione degli atti secondo la formula dell'archiviazione provvisoria. Franco Giustolisi, giornalista e scrittore, racconta nel libro L'armadio della vergogna il lungo cammino verso la ricerca della verità,

Si misero a parlare tra loro. Il soldato riferiva all'ufficiale cosa gli era stato detto via radio. Ma gran parte delle cose che si dicevano non le capì. Aber das meiste habe ich nicht verstanden. Eravamo appoggiati al muretto che circondava la chiesa. A un certo punto dovetti andare in bagno. Girai intorno alla chiesa, vicino alla torre, e lì trovai due giovani che giacevano morti. Non so chi gli avesse sparato. Poi tornai al muretto. C'erano sempre più persone che erano state trascinate in piazza e c'era anche un prete. Il prete fu invitato più volte dall'ufficiale ad avvicinarsi. L'ufficiale gli diede un ultimatum. Se in 10-15 minuti la gente non avesse detto dove erano gli uomini, sarebbero stati uccisi. Il prete andò dalla sua gente e parlò in italiano. Lo vidi parlare con le persone che si inginocchiarono davanti a lui. C'era un silenzio assoluto. Nessuno gridava, ma neppure piangeva. Solo preghiere per quello che ho potuto sentire. Scaduto l'ultimatum, dopo 10 minuti sentì un rumore assordante di mitragliatrice dal lato della montagna. Non vidi chi sparava perché dall'angolo della chiesa dove mi trovavo non potevo vedere i soldati. Ma vidi come furono uccise le persone. Dall'armadio della vergogna sono venuti alla luce anche i fascicoli sui responsabili materiali della strage di Mazzabotto. Dal 29 settembre 1944, per 3 giorni, a Mazzabotto, Grizzana e Vado di Monzuno, il maggiore delle SS, Walter Reder, compie l'eccidio più efferato nel nostro paese. I nazisti irrompono nella chiesa di Caviglia. Vengono sterminati tutti i fedeli radunati dal parroco Don Ubaldo Marchioni. La rappresaglia prosegue in paesi e frazioni. 1830 le vittime, in gran parte donne, vecchi, bambini. Cornelia Paselli, 80 anni, è una superstite della strage di Mazzabotto. E noi corremmo subito nella chiesa e là trovammo tutti, avevo anche dei parenti, la zia, dei cugini, eravamo un centinaio. E allora rimanemmo lì che arrivò anche il sacerdote, poi i soldati arrivarono dopo una mezz'ora circa, arrivarono un gruppo di SS tutti armati e ci dissero fuori dalla chiesa, venite tutti fuori, e poi dissero col prete di accompagnarci in una casa che era lì vicino. E allora facendo la strada si pensava anche di scappare. Invece incontrammo subito lì vicino al cimitero un'altra squadra di tedeschi. Allora diedero l'alt, ci fermarono subito, poi piazzarono un tedesco con la mitragliatrice pesante di fronte a noi. Poi andarono lì nella chiesa a sentire forse cosa avevano detto gli altri, volevano una conferma, e difatti arrivò la risposta di entrare tutti dentro al cimitero. Ci misero dentro proprio come un gregge di capre, così, e poi un soldato tedesco si mise lì vicino a noi con la mitragliatrice e stava caricandola per uccidere tutti. Una signora voleva, quando fummo dentro, sentì che gridava, urlava, lasciatemi andare da mia figlia, voglio vedere mia figlia. E lei tentò di fare un passo, la uccisero per prima. Io ero sempre lì davanti, volevo pure cercare di salvarmi, volevo andare in mezzo al gruppo delle persone perché intanto mi sentivo un pochino più protetta. Invece non ci riuscivo, spingevo e rimasi tutta all'esterno, proprio scoperta, che avevo proprio il tedesco davanti a me. Caricava sta mitragliatrice, la mia mamma mi seguiva con lo sguardo e teneva abbracciati 2 piccoli, perché 10 anni erano ancora piccoli. Lei disse subito, bambine, dite l'atto di dolore. ma io non ci riuscivo, poi cominciavo a dire atto di dolore, e poi non riuscivo ad andare avanti, non mi ricordavo le parole, poi lo spavento in quel momento lì, anche non si vuole morire, proprio si cerca tutti i modi di sopravvivere. Poi tutto un tratto sentì un gran busso, era una bomba a mano, buttarono per primo una bomba a mano. Questo spostamento d'aria mi buttò proprio sul gruppo delle persone, poi tutti gli altri mi cadevano addosso, tutti morti, un orrore proprio. Cominciai a scappare dove sapevo che c'erano dei contadini, ma trovavo solo morti. Girai tutto il tempo, arrivare a sera, ma trovavo solo dei morti. Tra le stragi nazifasciste nascoste nell'armadio della vergogna c'è quella di Cefalonia, tra l'8 e il 22 settembre 1943. Al momento dell'armistizio dell'8 settembre 1943, le forze dell'asse occupano ancora la Grecia, aggredita 2 anni prima. Le isole ioniche sono presidiate dalle truppe italiane della divisione Acqui. Tra i soldati italiani emerge un forte sentimento di ostilità nei confronti dei nazisti e di rifiuto della resa. I nazisti passano dalle parole ai fatti. 9.500 morti, tutti ufficiali e soldati italiani, 5.000 di loro passati per le armi dai tedeschi. Amos Pampaloni, comandante della divisione Acqui, è uno dei pochi superstiti della strage di Cefalonia. Certo, un ricordo tremendo, perché fatto prigioniero, io e la mia batteria, una volta fatti prigionieri, i tedeschi intanto portarono via tutto quello che potevano portare via, oltre le armi, oltre i moschetti e le 2 mitragliatrici. Dopo ci fecero mettere tutti per uno. Pensavo che ci volessero trasportare via. E il capitano tedesco mi disse di andare in testa e io mi andai in testa alla fila dei miei soldati, che erano tutti per uno, e seguito dal mio sottocomandante. Il tedesco, l'ufficiale, ci aveva in mano un Maship pistol, ma io pensavo che avesse la pistola solo nel caso che io tentassi di fuggire. Io feci un passo e lui, con la pistola alla nuca, mi sparò un colpo che naturalmente mi scaraventò in terra. Colpo, intanto il primo miracolo, io casco, non perdo la conoscenza e sento che immediatamente si vede che il capitano era d'accordo con i suoi soldati. Da una mitragliatrice che era di fianco partì una raffica dietro di me e ammazzò i miei soldati e i miei ufficiali, circa 30 uomini. I tedeschi dopo poco andarono via e io sono sopravvissuto. E alla fine del racconto di questo pezzo di storia italiana sorgono spontanee alcune domande. Qualcuno si prenderà mai una responsabilità politica per l'occultamento di prove e di indizi? E ancora, si troveranno mai i colpevoli di queste omissioni? Perché una democrazia deve fare i conti anche con il suo passato.